Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Virus West Nile. Dopo i contagi di due anziani fragili nel comune di Rivignano Teor, si intensifica il lavoro di prevenzione. In municipio distribuite compresse larvicide contro la diffusione delle zanzare. Primo giorno di chiusura della superstrada slovena H4 alle spalle di Gorizia. Mezzi pesanti dirottati verso Fernetti, code alla barriera dell'Isar. Il punto sul turismo dopo Ferragosto. A Trieste gli operatori chiedono una cabina di regia per evitare l'overtourism e gestire il fenomeno delle case vacanza. Pubblici esercizi e contratti dei dipendenti. Dalla FIPE un manuale contro la concorrenza sleale, ora anche online. Pordenone, ultimo giorno di residenza dell'orchestra giovanile Gustav Mahler. Ai primi di settembre due concerti al Verdi chiuderanno il tour estivo che comincia domani. Calcio, l'Udinese prolunga la campagna abbonamenti. Intanto stasera la squadra debutta in Coppa Italia contro la Carrarese. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Nella prima ora di distribuzione nel municipio di Rivignano Teor sono già state consegnate alla cittadinanza oltre 100 confezioni di compresse larvicide contro la diffusione delle zanzare. L'iniziativa del comune è stata decisa all'indomani della scoperta di due casi di infezione al virus del Nilo occidentale, due persone fragili la cui infezione è stata rilevata nell'ambito di controlli generali della salute. Stanno entrambe bene, sono i primi due casi segnalati dalle aziende sanitarie alla regione nel 2025, un anno in cui il virus sta colpendo soprattutto in Lazio, Campania e Lombardia. Sono 21 le vittime accertate a livello italiano, malati anziani e con pluripatologie nella grande maggioranza dei casi. Nel comune di Rivignano Teor è iniziata alle 10 la distribuzione di confezioni di compresse larvicide per prevenire la diffusione delle zanzare, un'iniziativa del comune proprio in seguito ai due casi che si sono registrati qui nel territorio, due casi che non sono gravi, persone che avevano altre malattie e che hanno scoperto questa infezione facendo i controlli generali. Dunque, perché avete deciso di attuare, di portare avanti questo piano di prevenzione? Lo chiediamo al sindaco Fabrizio Mattiusi. Sì, appena siamo stati notiziati di questi due casi, a distanza di qualche giorno uno dall'altro, e consapevole che l'amministrazione comunale, il sindaco è responsabile della salute pubblica e consapevole che la nostra popolazione è abbastanza anzianotta, quindi ecco, sotto il profilo di fragilità, dimostrando una certa fragilità, abbiamo voluto applicare il concetto che la prevenzione è meglio che la cura. Per cui abbiamo subito investito gli uffici tecnici e la ragioneria per mettere a disposizione le risorse per acquistare i blister e avviare una campagna di disinfestazione pubblica. Quindi quanti ne avete acquistati? Acquisteremo, ecco, l'equivalente di un blister per ogni famiglia, circa 2.800-2.900 blister, e ci saranno, come dicevo prima, tre interventi sulla via pubblica ad opera di una ditta specializzata. Una grande risposta da parte della cittadinanza finora, ve l'aspettavate? Direi di sì, la risposta è massiccia, diciamo che dopo un'ora e mezza abbiamo già distribuito più di un centinaio, quasi 120 confezioni, e quindi questo dimostra l'attaccamento e la sensibilità al tema, ma soprattutto anche a seguire le azioni che l'amministrazione comunale mette in campo. Rivignano Teor, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi è il primo giorno di chiusura per la superstrada slovena H4 che da Razdrto prosegue verso il confine di Gorizia fino in località Vertoiba, dove sfocia nella A34 in direzione Villesse. Chiusura che riguarderà solo la viabilità verso l'Italia. Per questo, da oggi e per un periodo di oltre 3 mesi, i mezzi pesanti saranno obbligati a proseguire sull'autostrada slovena A1 fino al valico di Fernetti, dove nelle giornate più affollate si prevedono in transito fino a 4.000 automezzi in più. Attualmente, tuttavia, la situazione al valico è tranquilla, con una coda di camion che rientra nell'ordinarietà del traffico. Un traffico maggiore, composto soprattutto da automobili di vacanzieri, si registra invece alla barriera dell'Isert in direzione Trieste, con l'entrata consigliata a Duino per alleggerire le code. Le autorità slovene hanno disposto l'autopsia sui corpi dei due motociclisti del Friuli Venezia Giulia che hanno perso la vita in altrettanti incidenti oltre confine. Nel primo, avvenuto sulla strada tra Cosina e Divaccia, è morto un triestino di 54 anni, Bruno Zedic, che viaggiava con un 33enne, rimasto gravemente ferito e ora ricoverato all'ospedale sloveno di Isola. Non ci sono stati testimoni e il luogo dello schianto con la moto finita fuori strada è stato scoperto solo molte ore dopo essere avvenuto. Nel secondo incidente, accaduto non lontano da Postumia, è deceduto Marco Bregant, 54 anni, finanziere di Fogliano Re di Puglia, che si è schiantato contro uno spartitraffico. Il 18 agosto 1946 la strage di Vergarolla a Pola, con la morte di decine di civili che si erano ritrovati per assistere a un evento sportivo, una gara di nuoto che era stata pubblicizzata come una manifestazione di italianità. Esplosero residuati bellici che erano stati accatastati sulla spiaggia. Le vittime identificate furono 64, ma la stima dei soccorritori superava il centinaio. Quelle terre erano militarmente presidiate dagli anglo-americani. La guerra era finita, ma nessuno dei tre stati interessati, Italia, Jugoslavia e Gran Bretagna, avvia una vera commissione d'inchiesta per chiarire responsabilità ed esecutori. L'inchiesta della polizia civile finì per insabbiare e cancellare una strage dalla memoria collettiva. Una proposta di legge della deputata triestina di Fratelli d'Italia Nicole Matteoni, depositata alla Camera qualche mese fa, riguarda l'istituzione della Giornata Nazionale del Ricordo dei Martiri di Vergarolla. Nel 2026 si celebrerà l'80° anniversario. Parliamo di turismo a Trieste. A Ferragosto molti visitatori, sono ancora tanti quelli in città. Gli operatori del settore chiedono coordinamento e una cabina di regia per evitare che a Trieste si verifichi il fenomeno dell'overtourism e anche per controllare, per esempio, il fenomeno delle case vacanza gestite non da privati ma come un business. Ne parliamo con Fulvia Ercoli, vicepresidente dell'associazione Bed and Breakfast e Case Vacanza a Trieste. A Ferragosto è andato bene, c'è stato un buon riempimento. Qualche struttura ha avuto un po' di calo, cosa abbastanza inconsueta, nei primissimi giorni di agosto. E i turisti comunque continuano a venire, Trieste è una città assolutamente attrattiva e direi che ormai non siamo più una città di passaggio per la maggior parte del turismo, cosa che fino a qualche anno fa ovviamente eravamo. Adesso in una considerevole parte siamo finalmente una meta. Molti turisti fissano qualche giorno qui e poi vanno a visitare l'Istria grazie ai collegamenti marittimi, e vanno anche a Tarvisio, vanno anche in montagna e quindi la nostra regione, essendo un piccolo gioiello, è tutto raggiungibile in poco tempo con vari mezzi, macchina, bus e barche. Sulle case vacanza c'è una certa polemica, si dice che anche sottraggono spazi agli affitti di coppie, famiglie. Non è il vostro caso, ma lei cosa ne pensa? Le case vacanze sono un po' una giungla, ad esempio a Trieste le proporzioni sono che i bed and breakfast ormai da 10-15 anni siamo stazionari sul numero di 100 circa e le case vacanze invece sono decollate da poche centinaia che erano fino a qualche anno fa, adesso sono qualche migliaio. E ovviamente alcune sono gestite in modo non imprenditoriale da privati che si prendono la briga di dare un servizio, di accogliere gli ospiti e quindi trasmettere l'amore che hanno per la propria città a chi la viene a visitare, e altre case vacanze che, per quanto viene consentito appunto dalla legge, fanno attività e fanno business. È un po' una giungla. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La concorrenza sleale nel mirino di Confcommercio, che ha messo a disposizione degli associati un nuovo strumento che fa chiarezza soprattutto su contratti e retribuzioni per i lavoratori dei pubblici esercizi. Ascoltiamo. È ora accessibile anche online il manuale a contrasto dei contratti di lavoro nei pubblici esercizi che applicano condizioni meno favorevoli per i lavoratori, cioè il cosiddetto dumping contrattuale. Obiettivo dell'iniziativa della Federazione Pubblici Esercizi FIPE di Confcommercio, fornire uno strumento di confronto tra i vari accordi collettivi adottati nel settore, così da individuare quelli che forniscono le giuste garanzie. Spiega la Presidente regionale FIPE, Federica Suban. Questo è molto importante perché i contratti esistono, ci sono, e però danno delle garanzie minori al lavoratore. Quando poi si parla e vengono fuori casi dove il lavoratore dice che per le ore fatte, per le giornate impegnate, per gli straordinari festivi, non ha l'adeguata retribuzione, è perché i contratti applicati non sono quelli sottoscritti da FIPE. Punto centrale, appunto, il superamento del fenomeno della concorrenza sleale. Un risultato che, se da una parte tutela le imprese perché le ripara da eventuali problemi sindacali a causa di retribuzioni non adeguate, dall'altra rappresenta un vantaggio per chi lavora. Ancora Suban. Fondamentalmente si parla sempre di applicazione di retribuzioni corrette e di conseguenza, sia per quanto riguarda i festivi, gli straordinari, le domeniche, ecco, tutta una serie di tutele in questo senso. La corretta retribuzione viene quindi calcolata con percentuali maggiorative a seconda delle giornate festive, dell'orario straordinario, in aggiunta alla giusta individuazione della mansione e dei permessi. Consistenti le cifre in gioco, che possono tradursi in 3-4 mila euro annui di differenza per lo stesso livello di lavoro svolto a seconda del contratto applicato. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Oltre 750 mila euro del fondo privato lasciato dal cardiologo Attilio Maseri sono stati investiti in 3 anni in supporto alla formazione e alla sperimentazione clinica e preclinica in cardiologia. Tra le voci, 3 borse di dottorato dell'Università di Trieste in cardiologia molecolare, un assegno di ricerca in supporto a periodi di formazione in centri internazionali di eccellenza all'estero, rimborsi per l'iscrizione a master di secondo livello e a congressi scientifici internazionali di alto profilo. A gestire il fondo è l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Il coordinamento delle attività di ricerca è affidato al professor Gianfranco Sinagra, direttore della cardiologia di Trieste. Dare spazio ai sentimenti, curare i legami, costruire un nuovo modo di essere genitori anche all'interno del carcere. È l'obiettivo del percorso promosso dall'associazione Icaro Volontariato Giustizia nella casa circondariale di Udine con il sostegno del comune. Il progetto, partito a ottobre scorso e concluso a luglio, ha visto l'intervento dello psicologo Francesco Milanese, impegnato con una ventina di padri in incontri settimanali della durata di 2 ore. Il risultato più significativo è stato la scrittura di una lettera collettiva da parte dei padri detenuti, rivolta alla propria figlia nel giorno del suo compleanno. Ma sentiamo Milanese. È un progetto che nasce da parte dell'associazione Icaro ben prima. Aveva 2 corni, diciamo, di progetto. Uno riguardava le domeniche in famiglia, per cui ragazzi e bambini che potevano visitare i loro genitori assieme alle mamme entravano nel carcere, passavano una giornata intera e non soltanto la piccola ora di visita. E poi ci si è accorti che una parte dei detenuti che avevano figli non avevano rapporti con i loro figli e quindi hanno iniziato questo progetto, di cui io sono stato incaricato come tecnico di lavoro, per poter aiutare questi genitori a recuperare e ricostruire la loro relazione genitoriale. Come si svolgono questi incontri? Che cosa fate? Durante gli incontri noi affrontiamo volta a volta delle tematiche che nascono dalle loro esperienze. Faccio per esempio la videochiamata. Videochiamare i propri figli per delle persone detenute è un problema non tanto per la frequenza, che può anche essere diversa, ma perché ovviamente è possibile nel momento in cui è possibile, non sempre questo momento è in sintonia con quello che si vive all'esterno e quindi alle volte i detenuti trovano un po' frustrante questa telefonata perché i bambini non sono pronti, o questo era un esempio di tanti che se ne possono fare. Per alcuni era un problema raccontare di essere in carcere, quindi aiutare a fare un ragionamento sulla verità. Uno degli esiti di questo anno, di questo progetto, è stata la lettera scritta dai detenuti ai loro figli e alle loro figlie. Abbiamo lavorato tanto su che cos'è che vorremmo poter dire ai nostri figli. E allora da questo desiderio nasce l'idea di usare una metodologia abbastanza antica ma consolidata, che è quella della scrittura collettiva. Ognuno porta un pezzettino, delle piccole frasi come fossero dei mattoncini, che poi vengono composte in una architettura che è condivisa, e ci sono tutta una serie di temi importantissimi: la verità, il desiderio di poter incontrare, ma anche la percezione della propria responsabilità. 12.45, diamo uno sguardo alla situazione del tempo. Sul Friuli Venezia Giulia abbiamo cielo sereno, su pianura e costa variabile in montagna. Queste le temperature delle 11, a Trieste 26 gradi, mare poco mosso con temperatura di 25 gradi, a Gorizia e Udine 26 e 5, a Pordenone 26, nell'area montana Tolmezzo 23, a Tarvisio 20, a Sappada 19 e mezzo, a Forni di Sopra 22 gradi, sul Piancavallo 18 e 5 e in quota ancora sullo Zoncolan 15 gradi e mezzo, sull'Ossari 13 e mezzo, sulla costa Grado 27, a Lignano 26 con temperatura del mare 26 gradi in entrambe le località. Queste le previsioni per oggi. Cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana. A Trieste, soffierà Borino, Carignano e Grado sarà sostituito da brezza. Domani invece cielo in genere sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità più persistente sulle prealpi. Venti di brezza, sulle Alpi Carniche al confine con il Cadore non è esclusa la possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano. 7 settimane di lavoro, 350 ore di formazione intensiva accanto a professionisti della danza contemporanea di fama nazionale e internazionale e la proposta del nuovo corso di alta formazione della compagnia Area Rea, giunto alla sua 7ª edizione. Un percorso pensato per giovani danzatori e danzatrici tra i 18 e i 30 anni che affianca allo studio della tecnica momenti di ricerca sul movimento, incontri con coreografi, ospiti e approfondimenti sugli aspetti tecnico-organizzativi della professione, come la conoscenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il corso si svolgerà da ottobre 2025 ad aprile 2026, distribuito appunto in 7 settimane a cadenza mensile. Le candidature vanno inoltrate entro il 24 agosto e a settembre si terranno le audizioni a Pesaro, a Udine e a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi. Gli spettacoli. Comincia oggi a Grado la 34ª edizione dell'Alpe Adria Puppet Festival con decine di spettacoli e le migliori compagnie della scena internazionale. Abbiamo intervistato il direttore artistico Roberto Piaggio. Quest'anno il cartellone prevede 13 spettacoli con 18 appuntamenti provenienti dall'Italia, dalla Slovenia, dalla Spagna e dalla Francia. Il festival è sempre stato internazionale. Sono tutti spettacoli comprensibili a tutto il pubblico, sia italiano che straniero, anche perché molti sono senza parole. Il programma è una panoramica, una vetrina di come si sta muovendo oggi il teatro di figura in Europa, ecco, fra tradizione e innovazione. Il festival continuerà fino a venerdì 22. Oggi, lunedì, quindi, è la prima giornata del festival. Qual è lo spettacolo di debutto? Lo spettacolo di debutto è uno spettacolo un po' particolare, nel senso che fa parte di un progetto del CTA, che è il centro che organizza il festival. Il progetto è Piccole Storie, un percorso di piccole storie, e debutterà questa storia, Il viaggio di Berta, che è un teatro di narrazione con oggetti e figura. Alla mattina invece partirà il laboratorio Luci di Mare, un laboratorio per bambini e genitori assieme, curato dall'artista e l'illustratore Emanuele Bertossi. Spesso si pensa al teatro di figura come qualcosa per bambini, ma invece qual è l'approccio e qual è il riscontro degli adulti che vengono a vedere gli spettacoli? È sempre molto positivo ed è sono spettacoli adatti a tutti, dove ognuno può ovviamente leggerla secondo proprio dall'età e dall'esperienza come meglio crede. Sono per i bambini più piccoli, per gli adulti e anche per gli anziani. E questo è sempre stato un po' una delle caratteristiche del teatro di figura, che si rivolge veramente a tutti. La musica, ultimo giorno di residenza artistica estiva per la Gustav Mahler Jugendorchester a Pordenone. Sono stati 12 giorni di prove al Teatro Verdi sotto la guida di Christian Blacks, intervallate dal concerto della vigilia di Ferragosto nel Duomo di Valvasone, propedeutica al tour estivo della prestigiosa formazione. Nelle prossime settimane l'orchestra giovanile, diretta da Manfred Honeck, si esibirà nelle grandi città europee della musica. Domani il debutto a Bolzano e tra le tappe successive ci sono per esempio Salisburgo e Dresda. Tornerà a Pordenone per 2 concerti in programma al Verdi il 2 e il 3 settembre. Lo sport calcio Udinese-Carrarese apre questa sera allo Stadio Friuli la stagione ufficiale dei bianconeri. La partita è valida per i 32esimi di finale della Coppa Italia. Di fronte c'è un'avversaria alla sua seconda stagione in Serie B. Partita secca, chi vince affronterà il Palermo, che ha già eliminato la Cremonese. L'inizio alle 20.45. L'allenatore dei friulani Runiai ci ha orientato a schierare inizialmente la formazione di Brema, con la difesa a 3 e Bravo e Davis in attacco. Sarà inoltre la prima partita ufficiale di Karlström da capitano. Finora lui ha all'attivo 37 presenze con la maglia bianconera. Intanto la società ha prorogato la campagna abbonamenti fino al 13 settembre. Oggi è anche il primo atto del Trofeo Rocco, il torneo internazionale riservato agli under 17 che si disputerà su diversi campi della regione e in Slovenia. La partita inaugurale alle 18, tradizionalmente allo stadio Colaussi di Gradisca, di fronte Udinese e Chialin Smuzzane. Nello stesso girone ci sono anche gli sloveni del Nova Gorica e il Bologna. 3 i raggruppamenti, 12 le squadre, tra le quali Juventus e Torino. La finale in programma il 24 agosto. Per il basket è il giorno del raduno per l'APU Udine, che sta per riassaporare la Serie A dopo la promozione. Alle 18 il ritrovo dei giocatori al Palacarnera, un primo approccio tra i nuovi compagni, anche se alcuni impegnati con le rispettive nazionali si uniranno tra qualche settimana. È il caso del nigeriano Meko Vulu, che sta disputando la Coppa Africa e ieri ha segnato 12 punti contro il Camerun. Gli allenamenti dell'Old Wild West agli ordini di Vertemati cominceranno domani, domenica invece è previsto l'inizio del ritiro a Tarvisio. Già in campo da giorni invece la Gesteco Cividale, che si avvicina alla prima amichevole. Giovedì a Riccione la squadra di Pillastrini affronterà Pesaro nel triangolare che vedrà impegnata anche la Fortitudo Bologna. È tutto per questa edizione che vi è stata proposta da Daniele Letti e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Samuel Montalto e Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. 12:51 e 30 secondi, prossima edizione alle 15. Grazie per il vostro ascolto e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.